La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Compro oro, un boom che fa eco alla crisi economica nazionale e sembra offrire un doppio vantaggio a chi, vendendo i propri oggetti in oro non indispensabili, ne ricava denaro contante. Trasforma il tuo oro in contanti, vieni da Jolly Oro. Jolly Oro. Come mai sta qui? Perché non ho soldi. Dopo 30 anni che ho lavorato, 30 anni di contributi. La crisi economica imperversa, imprese e negozi chiudono, eppure un'insegna è sempre più frequente. Compro oro. Sono aumentati del 22,50% in tutto il paese e la stima potrebbe essere imprecisa perché non appartengono a una categoria specifica. Dei dati riguardo al compro oro ne abbiamo parlato più volte. Pare che i dati che ho sotto mano, poi li valuteremo, risalgono all'estate 2012, sono 28.000 gli esercizi compro oro in Italia, sono iniziati a apparire nel 2008 con l'inizio della crisi, oggi sono esplosi, ce n'è uno ogni 13.000 abitanti, sembra che movimentino 400 tonnellate di metalli preziosi, per un giro d'affari sopra i 7 miliardi di euro all'anno. Ora, messe così, le cifre possono suscitare una banale, superficiale impressione, però vi assicuro che io questa mattina, perché, come ho già detto nel lancio, ho voluto fare questa trasmissione, ho seguito in metropolitana il dialogo di due persone, una signora piuttosto corpulenta, vestita in maniera molto modesta, con un altro signore, anche lui che aveva i segni palesi del disagio addosso, persone che svolgevano professioni di tipo pratico, concreto, si vede dalle mani, si vede dalle, che non sono certo due intellettuali o due impiegati, ma questo non dice assolutamente nulla, non entriamo nel merito delle categorie privilegiate nella rappresentazione del disagio. Parlavano a bassa voce, ma io li ascoltavo, stavo vicino, e parlavano del fatto che lui stava andando a vendere alcune cose e raccontava e descriveva le cose che andava a vendere, delle catenine delle prime comunioni, dei piccoli gioielli, delle cose di famiglia di poco conto. E la signora lo consigliava, erano molto esperti, gli diceva il posto dove aveva avuto un maggior profitto e si parlava alla fine di una rendita, mi sembra, di 70-80 euro a grammo, qualcosa del genere, e lui stava valutando quel piccolo tesoro, probabilmente portava in tasca. Essendo lunedì, immagino che quello era stato il frutto di una sorta di riunione di disperazione familiare del fine settimana, oggi probabilmente c'era qualche scadenza e si saranno guardati intorno, non hanno trovato altra soluzione che prendere le catenine delle comunioni, le medagliette benedette, i gioiellini, le spillette, gli anellini che in tutte le famiglie stanno racchiusi dentro un calzino e nascosti in un cassetto e andarle a vendere. Beh, di questo voglio fare l'argomento di oggi, lo farò con delle persone che sono competenti nel campo della compravendita dell'oro per avere delle informazioni concrete, ma quello che vorrei di più e avere da voi qualche esperienza diretta, se vi risulta che in realtà, mentre da una parte gli aspetti più tragici, più palesi, sono quelli che appaiono nei titoli dei giornali, i funerali pubblici con rivolta nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni per persone che si suicidano per la crisi, ma non voglio parlare di suicidi, ma voglio parlare di quelle piccole manovre sommesse, nascoste, vissute con vergogna che si fanno in tante famiglie e prima tra tutte quelle di cominciarsi a vendere i piccoli e modesti gioielli di famiglia. 800 24 0024. C'è gente che non rispetta le normative, che sono registrare il cliente su un apposito registro, tenere questo oggetto a disposizione della pubblica sicurezza per 10 giorni. Ci risulta che molti comprano senza rilevare l'identità del venditore, e significa evasione. Per capire meglio questi luoghi ci siamo fatti prestare dei monili. E sono 15 e 45 grammi. E calcolato il loro valore di mercato. Sarebbe 354,73 euro. Già delle persone mi stanno correggendo tramite sms, cioè 70 euro al grammo, qui da me al massimo 35, ma per oro puro su 25 euro 750, vedete, può essere che abbia capito male, ma immaginate dentro una metropolitana con il casino e tutto, ognuno si fa i fatti suoi, la maggior parte delle persone ha una cuffietta alle orecchie. Io sono stato colpito però da quello zoom che ho fatto immediato su un momento di disagio che mi sembrava condivisibile, ma il fatto che tutti mi stanno correggendo vuol dire che il problema c'è, che l'esperienza c'è, che la competenza c'è. 800240024, cosa ne sapete voi del comprooro? Quanto vi è passato per la mente, quanto corrisponde alla realtà il fatto che si cominci a votare i cassetti dei piccoli gioielli o grandi gioielli di famiglia? In tutte le famiglie ci stanno, la trasmissione dell'oro di famiglia è qualcosa che ha sfidato tutte le modeste, tutte le guerre, tutti i disagi. Probabilmente dai tempi dell'oro alla patria non c'è stato un momento di così massiva alienazione del proprio oro di famiglia. Dottor Nunzio Ragno, buongiorno. Buongiorno. Il dottor Nunzio Ragno, ricordo che è presidente dell'Associazione Nazionale a Tutela dei Comprooro, quindi lei rappresenta gli esercizi che in Italia fanno questo tipo di attività. Le cifre che ho dato io probabilmente non sono molto aggiornate, intanto può aggiornarci sull'entità degli esercizi riconosciuti naturalmente ufficiali che fanno questo tipo di operazione? Certo, quei dati sono ormai abbastanza vecchiotti, risalgono a 6-7 mesi fa. Attualmente siamo intorno ai 35.000 operatori. Beh, lei mi dà una bella informazione che da giugno a oggi, in 6 mesi, da 28.000 a 35.000, vuol dire che è in crescita. Sì, è un'attività assolutamente in crescita perché, come ha ben detto lei, produce, è un'attività diciamo abbastanza all'avanguardia, perché sempre più gente si rivolge a questi esercenti per poter cambiare il proprio metallo, per motivi che lei ha ben citato, tranne qualche imperfezione circa i dati. Non ce n'è uno ogni 14.000 abitanti, ma attualmente uno ogni 5-6.000 abitanti. Però quello che mi preme evidenziare non sono sempre i lati negativi di questa attività, cioè il fatto che praticamente giri intorno a questa attività girino dei fenomeni poco chiari. Io ancora non l'ho detto ancora questo. C'è questa idea. Però parliamo intanto dell'aspetto. Lo dicono un po' tutti, lo scrivono un po' tutti, però non dicono quello che questa attività sta subendo ultimamente: furti, rapine, scippi, malversazioni di ogni genere, impedimenti all'apertura e al continuo esercizio dell'attività e all'ostruzionismo dappertutto. Cosa occorre per aprire un esercizio di comprooro? Che tipo di licenze o di qualifiche? Occorre semplicemente una licenza di pubblica sicurezza prevista dal testo unico di pubblica sicurezza del 1931, perché è ben ricordare che si sta parlando sempre di compravendita di oggetti usati, non certo di oro, che è un'altra cosa, vorrei dire a quelli che molto spesso confondono. L'oro, quando si parla di oro, si parla di oro da investimento e materiale d'oro. Quindi io non posso andare a vendere un lingotto, posso vendere solo vecchi? Assolutamente no, perché per vendere e acquistare il lingotto ci vogliono dei requisiti particolari previsti dal comma 3, articolo 1 della legge 7 del 2000, che regolamenta il commercio dell'oro. Qui si tratta di compravendita di gioielleria usata sotto forma di monili, che praticamente deve rispettare le prescrizioni dell'articolo 27 e 28 del testo unico, cioè quello della generalizzazione del soggetto e dell'operazione e del registro che bisogna tenere, oltre che la licenza. In realtà è appurato che tutti gli esercizi che fanno questo tipo di attività sono totalmente in regola con questa normativa? Allora, l'Associazione Nazionale Tutela Comprooro, tra l'altro la prima associazione in Italia che può rivendicare l'unica qualifica di promozione normativa. Cosa vuol dire promozione normativa? Noi ci siamo accorti che non c'era una vacatio legis come c'è, e ci siamo messi insieme per arginare questa vacatio legis in modo tale da poter dire in modo certo e chiaro ai nostri operatori quello che va fatto e può essere fatto, contrariamente a quello che non può essere fatto. Ma voi avete una specie di bollino di qualità, cioè per capire se si va da persone riconosciute, riconoscibili, rintracciabili, o si va da tagliagole qualsiasi, c'è una maniera per capirlo? Allora, assolutamente sì, noi siamo dotati di una carta etica disciplinare dove abbiamo annidato tutte le, diciamo una sorta di vademecum, tra l'altro anticipando quelle che sono le prescrizioni normative depositate in un progetto di legge che giace al Parlamento e di cui io stesso ne ho fatto parte come relatore in 10ª Commissione Attività Produttive per la formazione di questa legge, ahimè che ha subito uno stallo anche dovuto da questa situazione poco chiara a livello politico e che noi ci auspichiamo che si risolva quanto prima. Comunque noi dell'associazione suggeriamo, quindi anche già da tempi non sospetti, la giusta modalità operativa per far sì che venga tutelato al massimo il cliente, che poi non è cliente ma sostanzialmente è il fornitore. Il vostro fornitore. Il nostro fornitore. Senza, dottor Ragno, scusi, io gli sto semplificando forse troppo, ma per... Se lei lo spiega bene a me, capiscono tutti. Sì, in cosa certo. consiste il vostro lavoro? Voi acquistate vecchi gioielli, gioielli usati, monili e via dicendo. Cosa ne fate? Li fondete, fate lingotti e vendete lingotti? Allora, in cosa consiste il vostro guadagno? Allora, il margine, diciamo. Sì, allora assolutamente il Comproro non è un soggetto deputato a queste operazioni di fusione e ricondizionamento del metallo. E altrimenti non sarebbe soggetto solo alla licenza di pubblica sicurezza, come le ho detto prima. È un esercente attività commerciale all'ingrosso, perché chiaramente si acquistano da consumatori privati questi oggetti, per poi rivenderli a soggetti deputati a queste attività tipiche di fusione e di condizionamento. Quindi chi ricompra da voi, gli orefici? Noi li vendiamo ai cosiddetti banchi metalli o maggiormente fonderie. Per banchi metalli si intende colui il quale esercita professionalmente l'attività anche con operazioni di ricondizionamento o di prima trasformazione industriale. Molto possibilmente possono essere venduti a fonderie che sono soggetti sotto forma di industrie che sciolgono quel metallo per poi produrre e mettere sul mercato l'oro da investimento o addirittura il materiale d'oro per ulteriori processi di lavorazione. Naturalmente è tutto tracciabile questo percorso che va dal monile all'oro finale, diciamo. Ecco. Allora, le spiego subito. La questione che era, diciamo, che a cui ho accennato prima, che noi praticamente in questa carta disciplinare diciamo anticipiamo quello che la norma dovrebbe fare, sono esattamente degli atteggiamenti da porre in essere alla conclusione nel perfezionamento dell'operazione che attualmente non sono previste dal testo unico, perché il testo unico dice semplicemente di generalizzare e registrare. Noi diciamo di avvalersi di un supporto fotografico dell'oggetto. È quello che stavo domandando. Di rilasciare una ricevuta, di compilare un atto di vendita, che sono degli atteggiamenti e degli esercizi non obbligatori. Ma noi, a vantaggio e a favore della maggiore trasparenza dell'operazione, per garantire al fornitore che l'operazione sia fatta nel pieno rispetto delle regole, suggeriamo questi comportamenti. Ma mi sembra ancora... perfetto, sa perché? Perché per assurdo, se io fossi uno scippatore o un ladro d'appartamenti, avessi il mio malloppetto, me lo vado a vendere, una volta venduto, squagliato, non se ne sa più. Se io avessi comunque... fossi obbligato a dare anche una sorta di schedatura, un database di quello che si compra e si vende, sarebbe molto più facile poi individuare il percorso anche di merce furtiva. Quindi è ottimo quello che dice lei. Fermiamoci un secondo però. Ornella, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Niente, io pensavo che questo fosse uno sbocco per chi fa i furti in casa, perché sicuramente è una ricettazione autorizzata. Ho fatto la denuncia, la polizia ha fatto semplicemente un sopralluogo, neanche ho portato l'elenco di quello che mi è stato rubato dopo una settimana e forse neanche avevano la documentazione del sopralluogo che avevano fatto, avevo l'impronta sulla porta, non sono venuti neanche a guardarla, però credo che i miei gioielli siano andati a finire in questo modo. Lei pensa questo, lei dice sì. La maggior parte dei furti d'appartamento molte volte sono mirati, molte volte si sa benissimo, sono anche abbiamo fatto una trasmissione su questo, sono ragazzi molto giovani, molto piccoli, che entrano dalle finestre e tutto, e vanno mirati, comprano, rubano soltanto metallo prezioso, non gli importa del resto. Sì, sul letto. Quindi sanno perfettamente, si sa perfettamente che su questo c'è un grande giro di ricchezza, però dove va a finire? Lei dice se va a finire. Poi sentiamo cosa dirà il nostro ospite. Mirka, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia esperienza è stata che l'anno scorso ho portato dei piccoli gioielli, anellini, braccialettini, come diceva lei all'inizio, perché avevo bisogno di contante. Non appena ho appunto ricevuto quello che mi aspettava di soldi, di denaro, sono rimasta un po' così, perché ho detto, ecco, anche se erano cose molto semplici, però se ne va in fumo, perché comunque vanno sciolti, vanno fatti, va fatto fondere, insomma, l'oro. Beh, certo, se no le porta al banco dei pegni. Esatto. E il mio punto di vista era di pensare che noi abbiamo trovato, non so, monili degli Etruschi ancora prima, degli Egizi, eccetera, eccetera, e di quello che noi stiamo facendo negli anni 80, 70, 30, quello che è, se andiamo avanti così con questa situazione non resterà niente. Io la capisco la sua ansia, non credo che le catenine delle comunioni e dei battesimi che si fondono, i monili che noi però troviamo sono dei pezzi unici. Sì, sì, lei ha ragione. È comunque una cosa della nostra produzione, dei nostri No, lei dice comunque nella massa gigantesca dei gioielli di famiglia che si vendono, probabilmente sono delle opere di pregio, di artigianato, che hanno un loro valore anche artistico. Sì, le mie non avevano così tanto valore, però adesso in particolare avevo un paio di orecchini che mi aveva fatto il mio fidanzatino 20-25 anni fa, perché qua nella provincia si lavora molto l'oro. E se l'è squagliati. E dopo dicevo, ecco, questi erano tipici degli anni 80 e basta, sono andati squagliati, punto. Pensi come sarà felice il fidanzatino sentendo questa pugnalata al cuore che si è venduto gli orecchini. Ne avevo bisogno. Quanto ci ha fatto con quegli orecchini? Bah, no, in tutto avevo portato un sacco di cose, anche anellini. Quanto ha fatto? Ah, un 700 euro, perché avevo diverse cose. Le servivano proprio da un momento all'altro, ne poteva fare a meno, ecco. Sì, no, infatti me ne sono liberata. Però dopo, ecco, appunto, mi è dispiaciuto non tanto per le cose in sé, ma per il valore storico, cioè storico. Ma al prossimo giro cosa si vende? Ah no, basta. Finito. No, quello che ho tengo, perché mi è dispiaciuto, basta. Bene, no, Mirka, Marina, buongiorno. Buongiorno a tutti. Le protesi odontoiatriche, i ponti in oro, una volta tolti, estratti, lascio pensare a tutti da chi possono essere riutilizzate e fuse. Ma cioè prima bisogna ammazzare la persona o si tolgono da vivi? No, si possono togliere anche da vivi se poi si fanno gli impianti al posto delle protesi. Beh, quelli se li tiene il dentista di solito, penso, non lo so. Appunto, peggio ancora. Perché è oro puro quel oro. Beh, uno dice al dentista, ridammi il mio dente e non te lo tenere. Se nessuno glielo chiede, il dentista li butta nel suo sacchetto e poi si rifonde. Uno glielo dice al dentista, se mi togli il ponte ridammelo. È che infatti, quello che ho saputo io, che è talmente complicato poi ritirare fuori quell'oro, che alla fine il gioco non vale sempre la candela, ma non è detto così. Ci sono dei bei denti d'oro luccicosi che uno verrebbe voglia di portarli via. Sentiamo. Pulirli le schifezze, ma è molto più facile di quello che si pensa. Salve. Salve, grazie. Allora, avvocato Ranieri Razzante, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'AIRA, Associazione Italiana Responsabili Anti Riciclaggio. Lei vede che ha scritto vari libri, Compro Oro, Finanza e Legalità, Filo Diritto Editore, ha scritto vari testi su questa vicenda, e il dubbio di molti ascoltatori, forse lei questa mattina può chiarirlo, se in realtà le attività di Compro Oro sono un incentivo alla facile ricettazione, alla ricettazione autorizzata. Ma io lo ritengo un passaggio naturale con tutti i distinguo, perché è chiaro che ogni attività può prestarsi, anche l'attività del panettiere può prestarsi certo a fare attività illecite, quindi senza criminalizzare una categoria che ha tutto il diritto, se opera nella legge, di lavorare, è ovvio che attraverso un'attività del genere si trovi maggiore interesse, facilità soprattutto di accesso per chi i gioielli di porta sono suoi e, come la signora che parlava prima, aveva una necessità e li ha voluti monetizzare, ma anche chi porta gioielli non suoi, mi pare una cosa evidente. Molto spesso sono stati lanciati allarmi a noi che abbiamo fatto questa inchiesta insieme all'Associazione degli Operatori Professionali Nanopo e ho depositato in Commissione Antimafia. Questi allarmi sono stati ritenuti ingiustificati, poi sono arrivate piogge di inchieste, di ispezioni, di perquisizioni da parte della Guardia di Finanza e si è arrivate a qualche sentenza anche di condanna, perché sono stati trovati quintali, tonnellate di gioielli, oggetti di furto o di illecita provenienza presso dei negozi di compro-oro. Io dico dei negozi di compro-oro, non tutti i negozi di compro-oro, però certamente è un'attività che si presta immediatamente a ricettazione. Poi abbiamo attività, voglio dire, che possono allargarsi e diventano più gravi, come il riciclaggio, l'usura e il credito abusivo. Allora, avvocato Razzante, ci sentiamo fra un istante dopo, professor Razzante, anzi mi scusi, dopo le informazioni della borsa, che mi interesserebbe capire quanto quello che propone il presidente dell'Associazione Nazionale a Tutela del Compro-oro possa servire invece in parte a fugare questo rischio, cioè di fare una sorta di database, di schedare tutto il materiale, mi rendo conto possa essere complicato e difficile, del materiale che transita per il compro-oro, così almeno vorrei vedere un lato quanto poi è interessato a portare anche le foto di quello che ha appena rubato e porta a rivendere. Melog, la realtà condivisa. L'assoluta mancanza di regole ha permesso ai compro-oro di proliferare in tutta Italia, con gravi danni al settore degli orafi e alla trasparenza delle compravendite del prezioso metallo. Per porre fine a questa situazione, il 16 ottobre scorso, Confartigianato Orafi, assieme alle altre organizzazioni datoriali, ha sostenuto in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati un veloce iter parlamentare per la proposta di legge sul settore. Tra le principali novità del testo, l'istituzione di un registro dei compro-oro presso le Camere di Commercio, la tracciabilità degli oggetti acquistati attraverso la creazione di una specifica banca dati e un pacchetto di disposizioni... 800 24 00 24, stiamo parlando di compravendita di oro. Questo è un servizio che abbiamo preso su YouTube. Gli orafi che protestano, che sentono prendere una fetta al loro mercato. Poi abbiamo persone che ci daranno degli elementi di chiarezza e di informazione riguardo al mercato. Però quello che a me più interessa questa mattina è sentire il polso del pubblico che ci ascolta, per sentire quanto, al di là di questa attività che abbiamo capito che può avere degli aspetti oscuri e limacciosi, ma esiste una grande volontà comunque di regolamentare e di dare trasparenza, dato che in questo momento è un'attività remunerativa e ha diritto chiunque di aprire nell'osservanza piena delle regole un'attività che in questo momento funziona. Le persone per il bisogno si vendono l'oro, non entro negli aspetti etici o di altro tipo. Ci sono molte persone che vogliono vendersi l'oro di famiglia, quindi chi ha modo e maniera di aprire un'attività che faccia da tramite tra queste persone e i grandi grossisti che poi la rilavorano, ritrattano quest'oro, nel rispetto delle regole e nell'osservanza delle leggi, ha pieno diritto di farlo. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Niente, io volevo dire soltanto, siccome è successo già in giro, che ci sono degli orafi disonesti. Perché vanno a vendere l'oro chi è che ne ha bisogno, e poi magari l'orafo chiede altre cose da vendere e il poverino magari gli dice che so un ricordo di famiglia, un ricordo di mia nonna, di mio nonno, e l'orafo, avendo l'indirizzo tramite i documenti, dopo qualche settimana, due settimane, gli va a mandare la squadra, sì, i ladri a casa. Questa è una sua ipotesi, però... No, è successo, l'ho sentito dire già. Sì, però non è che lo zio del cugino, del nonno, la nipote l'ha sentito dire. Se lei fa un'accusa circostanziata... Io non voglio difendere gli orafi, ma non sono per il pressapochismo. Può essere benissimo che esistano, come esistono in ogni categoria, persone disoneste. Anche tra gli orafi persone poi danno le dritte ai ladri. Però dirlo così è questa maniera di gettare un sasso nello stagno senza avere poi le possibilità di tracciarne gli effetti. Quindi se lei ha circostanziata notizia di un orafo che fa da tramite a truffatori o ladri di appartamento, lo denunci. Se no, dirlo così è come dire tutti i preti sono infami o tutti i medici sono disonesti, non vuol dire assolutamente nulla. Io non sono per la generalizzazione. Maria, buongiorno. Posso parlare? Certo. Allora, buongiorno. Volevo dire due cose. Dunque, io sono entrata in uno di questi posti e ho visto che comprano praticamente oro con anche però pietre, e lo vendono, cioè lo comprano al prezzo a peso, comprendendo anche delle pietre preziose o semipreziose, anche brillanti. Allora io sono andata per chiedere, dicendo: se vi capitano cose della secessione viennese, che non sono solitamente, sono cose molto importanti, disegnate da artisti come Dagobert Pesce, Joseph Hoffman, Coloman Moser. Oddio, se uno ha un pezzo del genere, non credo che vada. Capitano, il loro valore non è nel valore del materiale, sì, che ha, soprattutto sono anche leggeri e a volte sono anche in argento dorato, ma nel design, come nelle cose degli anni 80 di Sozzas, di architetti importanti. Ho detto: vabbè, io ve li compro se li cazzo. Questi non sanno niente, sono di un'ignoranza spaventosa, cioè non conoscono neanche cosa sia. Sì, e parli di ignoranza o la cattiva fede di chi va a vendere queste cose. E una volta una di queste qui di Comproro mi dice: sì, una volta ci è capitato dei gioielli, noi allora non ce ne intendavamo, che erano di Cartier, li abbiamo comprati a peso, avevano brillanti, rubini, eccetera, è passata una signora, perché loro rivendono anche, e praticamente li abbiamo rivenduti con il nostro guadagno senza calcolare le pietre. Gli ho detto: avete fatto proprio un affare. Se io avessi un mobile d'antiquariato e lo porto a un signore che fa legna da ardere, lui lo mette nella motosega, lo fa pezzi, non si fa domande. Ha detto che delle ragazze hanno portato questa parure di Cartier e loro gliel'hanno pagata a peso. Poi un'altra signora è entrata per vedere, perché loro rivendono anche quello che hanno, e una signora è entrata per vedere cosa era arrivato e ha visto questa parure, l'ha comprata subito, praticamente l'ha pagata qualcosa di più, che loro ci mettono chiaramente un guadagno, ha comprato questa parure. Se non fosse entrata sta persona a comprare questa parure, cosa faceva? Perché la gente in altre epoche ha fatto grandi affari girando per i mercatini, perché c'è sempre un'ignoranza, una poca cultura rispetto al valore della merce. Io ho chiesto, siccome sono entrata, che volevo sapere a quanto rivendevano al peso, perché loro rivendono anche le cose che comprano, infatti hanno una vetrina dove mettono le cose che hanno comprato, rivendendole, e quelli che se ne intendono calcolano anche la caratura dei brillanti, eccetera. E allora io ho chiesto: non vi capitano cose di design? E sì, a volte ci capitano, adesso però che le conosciamo le rivendiamo al loro valore. E qual è il problema? È il loro mestiere, e perché devono farlo senza guadagnare? No, quello che voglio dire è che ci sono, cioè, non è che si può pretendere sempre da tutti di spirito quello altruistico. Quello che voglio dire è che ci sono dei posti di questi compro oro che comprano a peso, comprendendo nel peso anche i brillanti, quindi non pagandoli i brillanti, ma calcolando. La regola è questa, e uno non se li vada a vendere, stacchi i brillanti, li vada a vendere altrove. Scusi, io non, in questo sono veramente molto laico. Nunzio Ragno, ricordo, presidente Associazione Nazionale Tutela dei Comproro. Rispetto a quest'ultima telefonata, diamo qualche elemento di chiarimento, perché sennò tutti pretendono, come non esiste l'altruismo in un'attività commerciale, esiste l'onestà l'osservanza delle regole. Il gioiello si compra a peso d'oro, compresi anche le pietre, sì, mi pare. Allora, dottore, innanzitutto mi faccia dire che una situazione gestita in un modo così parziale, però giusto, fatta da parte sua, non l'avevo mai sentita. Mi complimento, perché lei ha ricordato bene che è un'attività commerciale, e quindi ognuno, l'importante è che la svolga nel pieno rispetto delle norme. Non è parziale, sono laico io di punto allora, di vista. Mi complimento. Ma non mi complimento, ma mi sembra il punto di vista migliore. Ha già risposto la signora all'ultima, perché ho qualcosa da dire anche per gli interventi precedenti. Non è che faccio i vostri interessi, non ho nessun interesse. No, io. Ma guardi, il problema è che io ho detto che se esiste una regola e una legge, il commerciante fa il suo lavoro. Lei ha assunto una funzione giustamente di terzietà, quindi è giusto, perché lei non va a favore di nessuno, né dell'esercente né di chi va a comprare. Per rispondere alla signora, questi soggetti si chiamano comproro, si dovrebbero chiamare per regola comprooreficeria usata, più che compro. Esattamente. Oreficeria usata. Quindi praticamente l'oro non si può mai comprare al prezzo d'acquisto, perché ciò che incide nel momento in cui lo si va a comprare come gioiello nuovo per rivenderlo è la lavorazione. Quindi nel momento in cui si ritira, si acquista esattamente al peso. Le pietre sono altra cosa, perché le pietre sono degli accessori che vengono incastonati per rendere più valoroso, più prestigioso l'oggetto, il monile. Quindi Noi diciamo sempre che sarebbe meglio farsi fare una giusta e dovuta valutazione da un gioielliere che è un, come dire, esperto in questa materia, o addirittura da un esperto gemmologo, no, per quanto riguarda le pietre. Ma per ciò che riguarda tutto il resto, è giusto che l'esercente si comporti in questo modo, cioè nel senso che deve fare il suo guadagno. Vorrei riferirmi un attimino a ciò che è stato detto precedentemente dall'altra signora a proposito della presunta ricettazione autorizzata, no? Cioè non è così, cioè voglio dire, la ricettazione esiste, ma perché la dobbiamo sempre addebitare, circoscrivere intorno ai comproro? Signori, scusate, esistono delle operazioni di recente attualità scoperte di ingentissimi quantitativi di oro, la operazione Fort Knox di qualche mese fa parla chiaro, ma sono stati scoperti gioielli usati in grandi quantità o sono stati scoperti lingotti? Ma perché non ci interroghiamo su questo? Io non voglio nemmeno dire che esista una totale e specchiata trasparenza, visto che ne crescono tanti questi esercizi. Apprezzo il fatto che comunque ci sia qualcuno che ci mette la faccia come lei, noi dice stiamo dando le regole. Noi siamo nati per creare delle regole, noi vogliamo più di chiunque altro creare delle regole. Faremo a breve un comunicato stampa. E cosa direte in questo comunicato? Diremo che necessita urgentemente una forma di contenimento normativo. Non possiamo più assistere a diverse interpretazioni della norma solo perché l'articolo 9 del decreto legislativo, Regio Decreto 773 del 31, quello di pubblica sicurezza, mette nelle mani dei questori un ampio potere discrezionale. Allora aspetti, fermi un attimo che adesso diamo le informazioni del traffico, così poi ce lo spiega bene, perché ci ha telefonato anche proprio la persona che è l'estensore di questa norma, quindi vedremo di capire esattamente qual è il punto, però spiegatecelo in termini comprensibili alla modestia delle nostre conoscenze. Melog, la realtà condivisa. 800240024, parliamo di vendersi l'oro, parliamo di comprare oro. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio. Sì, l'ho spenta. Ecco. Vi racconto la mia breve esperienza con dei compri oro. Anni fa ebbi l'occasione di vendere dell'oro vecchio di mia nonna. Ma quanti anni fa? Perché è un fenomeno molto recente. 6-7 anni fa. Prima della crisi, quindi siamo in epoca più arcaica. Diciamo, eravamo in una situazione ancora abbastanza tranquilla, dell'oro vecchio che mia nonna non indossava più. Lei non ci vede bene, mi chiese di farle questo favore, allora andai in questo comprooro che era uno dei primi che c'erano e praticamente mi fecero, non ricordo i grammi d'oro, però mi fecero una valutazione circa di 400-420 euro. Non fidandomi, io ho preferito non vendere e prendere tempo, dicendogli che avrei deciso successivamente. Poi mi recai dall'orefice del mio paese, che conoscevo, stessa quantità d'oro, mi fece una valutazione di circa 660 euro. Capisce anche lei che è comunque una cifra molto superiore. Allora qual è il problema? 50 euro in più. Ma scusi, se io facessi un compro, cercherei di pagare meno possibile le cose che mi danno. Qual è il problema? Se ne gira 10 troverà sempre la migliore occasione. Se lei deve vendere un'automobile, fa il giro di un po' di persone, non è che la dà al primo che gli offre una cifra. Noi abbiamo una idea, secondo me, molto ipocrita e molto bigotta del mercato. Ci sono delle regole, le regole vanno osservate. Esiste un principio di onestà e di osservanza e di limpidezza delle regole. Detto questo, è logico che chi compra cerca di comprare al prezzo minore possibile. Lei non è andato lì con una corda al collo dicendo se non vendo questo muoio. È andato con tranquillità 7 anni fa, che non c'era manco la crisi, a vendere gioiellini di famiglia. E lo ha fatto il suo prezzo. Lei era libero di accettarlo o non accettarlo. Andare da un altro e fare il suo miglior affare per quanto possa. Dunque abbiamo al telefono il dottor Walter Marazzani, che ci ha telefonato lui perché è responsabile estensore del decreto legge che è stato poco fa menzionato dagli Orfi. Ci spieghi meglio esattamente di cosa si tratta? Sì, buongiorno. Buongiorno. Si tratta di un disegno di legge, qualcuno dei suoi ospiti ne ha già parlato abbastanza diffusamente, dico anche in termini abbastanza corretti. Quando è stato presentato? È stato depositato, adesso le date sinceramente... Ma più o meno il periodo? Più o meno, diciamo nell'autunno del 2012, è stato depositato dall'onorevole Mattesini con relatrice l'onorevole Formisano. Se sempre per quanto riguarda la decima commissione industria. Sì, col casino che c'è adesso, figuriamo qua. Esatto. Parlo di occupare le camere per fare le commissioni. Esatto. Figuriamoci da quanto esatto. possa essere rimasto sepolto. E cosa diceva in sintesi? Visto siamo che arrivati molto vicini all'approvazione, tra l'altro avevamo appena concordato degli emendamenti che avrebbero reso ancora più efficace, diciamo, l'intervento di questa nuova normativa. E qual era il punto essenziale per capire? Sostanzialmente è già stato riferito, si tratta di introdurre una sorta di tracciabilità per quanto riguarda questi prodotti, quindi la fotografia del prodotto, l'indicazione, la sua registrazione e così via, l'identificazione del soggetto che vende, eccetera, la creazione di un codice Istat specifico per questo tipo di attività, perché ricordo a tutti che i Comprooro in realtà non fanno parte di nessuna categoria commercialmente identificabile, sono nati come fenomeno spontaneo, ma non in totale anarchia regolamentare. Quindi mi corregga, dottore, sì. se è esattamente quello che ci sia la crisi è innegabile, che la crisi sia potente, atroce, spietata è altrettanto innegabile. Che nei momenti di crisi si metta a fondo delle economie d'emergenza nelle famiglie è altrettanto conseguenziale, quindi certo. prima o poi è inutile, non si fermerà mai l'emorragia delle catenine, degli anellini, dei gioielli sì. che la gente si vende. Dottor Nicoletti, che è presente che il fenomeno dei Comprooro... Sì, no, dice, finisco il discorso, sì. sì. L'importante è che non finiscano in mano a strozzini, ma finiscano in mano a persone Chiaro. Che svolgono onestamente questo lavoro. Poi, sul risvolto etico, se io dovessi scegliere di andare a comprare l'oro di chi lo vende per bisogno, Chiaro. Ci penserei 10 volte, ma magari se il mio mestiere fosse quello, farei anche quello. Non sono io che devo dare patenti, assolvere o condannare, non è il mio mestiere. Devo solo informare in questo presente, momento. Dottor Nicoletti, io... sono responsabile area legale di Confindustria, Federorafi. Tenga presente che noi abbiamo migliaia di piccole aziende, che sono le cosiddette gioiellerie, che in questo momento stanno, diciamo, affrontando la crisi, che anche per loro è gravissima e forse certo, anche certo. più di altri settori li sta colpendo, grazie al fenomeno della permuta, per cui molta gente si presenta, porta la sua gioielleria, la sua oreficeria vecchia come e compra qualcosa di nuovo che deve regalare magari. Di nuovo in permuta, quindi anche il gioielliere, che è un'azienda storica che fa parte della nostra cultura commerciale di paese eccetera, ha bisogno di questo tipo di nuove forme di scambi, no? Cioè uno deve fare un regalino a una fidanzata, a un bambino che nasce così. Oggi con la crisi non potrebbe farlo, però può dare indietro delle cose vecchie e in esatto. cambio avere qualcosa di nuovo. Quindi in quel momento il gioielliere, il negozio di gioielleria si trasforma in un Comprooro sostanzialmente. Però i gioielleri dovrebbero dare una migliore informazione su questo, probabilmente perché si sappia di più. Però se lei mi permette, c'è una lievissima differenza. Da gioielliere si va a scambiare l'oro perché ancora si è in una condizione non di estrema e drammatica indigenza. Dice, ma magari non posso permettermi di fare un regalo prezioso, però ho delle cose in casa che non uso e faccio uno scambio. Chi va dal Comprooro va perché c'ha il cappio alla gola, perché il lunedì mattina deve vendersi i gioielli, perché deve pagare una scadenza che non può più rimandare. È un po' diverso forse. Ma questo era per dire che in sede di regolamentazione occorre tenere presente le varie sfaccettature che si vanno a regolamentare, quindi occorre considerare tutti questi vari aspetti. Allora vediamo, Ranieri Ruzzante, facciamo il giro con i nostri ospiti in conclusione. Il professore che è presidente dell'AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Siamo naturalmente in un'emergenza istituzionale, non sarà certo all'ordine del giorno, però questa normativa in sé ha un senso. Allora, assolutamente ha un senso, io riprendo quanto è stato detto con sia D'Aragno che saluto anche il collega di Confindustria, noi abbiamo lavorato insieme e lavoreremo ancora insieme perché come dice giustamente Ragno si tratta di tutelare un settore, attraverso la tutela di un settore merceologico si tutelano sia i produttori che i consumatori che sono i cittadini. E la tracciabilità è l'unica arma che abbiamo per combattere quello che può essere una devianza del fenomeno stesso e che giustamente lei rimarcava, mi congratulo ancora, come essere l'eccezione che conferma la regola. Non esagerate con le congratulazioni, poi dopo telefono dicono. No, perché... sembra che mi mandate poi sotto banco gli anellini per la famiglia, no. Non, sia chiaro che non me ne importa nulla. No, io che sono però uno... Io però che sono uno che cerca di guardare tutte le facce della medaglia in maniera un po' più, anzi l'ho fatto.